qua. Mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi. Two, two, two, two, hey, hey. Something, something, something, something. Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two, mic. Microphone check, check, one, two. Sound check, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Turn it on, turn it on. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Sì, buon Natale a tutti voi in contatto con il Groove Master Studio. E questo è proprio l'appuntamento di Natale del nostro Soundcheck, puntata numero 364. Auguri, auguri di buon Natale a tutti voi. E per noi il Natale è Ella Fitzgerald, naturalmente con un classico come Jingle Bells. Buon Natale a tutti, buon Natale a Francesco Tromba. Grazie, buon Natale a tutti, ciao. Come ti senti? Beh, un po' così, perché sarà il primo Natale lontano da casa. Ma lo fai con la mia famiglia? Vabbè, già comunque almeno una famiglia c'è, dai. Guarda, dovresti essere felice intanto, perché festeggiamo oggi qui su Radio 24 proponendo i grandi classici del Natale cantati probabilmente dalle più belle voci di tutti i tempi. Eh sì, ho visto la playlist, è assolutamente fantastica. Mi sono divertito tantissimo proprio ieri, l'abbiamo preparata la playlist insieme a un grande esperto di musica jazz, ma anche un grande esperto di Natale. Se non fosse per il fatto che ne ha già vissuti diversi, e insieme abbiamo già vissuto, lo posso dire, 55 Natali. Forse qualcuno l'ho saltato perché stavo in giro a fare concerti, però con mio padre, l'architetto Roberto Telesforo, di Natali insieme ne abbiamo fatti diversi. Benvenuto papà e tanti auguri. Grazie, grazie. Auguri a tutti quanti. Sei emozionato, papà? Sì, papà, sono emozionato quando vedo te, vedo Tromba. Ah, sei emozionato? Sei emozionato? Beh, addirittura. Beh, Tromba, tu dimentichi ogni tanto che stai diventando anche una star multimediale e televisiva, no, papà? E voglio. Tu conoscono tutti a Tromba, oramai non si parla altro che di Tromba. Niente di meno, sono onorato da questa cosa. Va bene, oggi festeggiamo il Natale con tutti voi, vogliamo accompagnarvi a casa, magari state chiudendo i negozi, forse non ancora, perché c'è da fare proprio gli ultimi acquisti, no? Gli ultimi regali. Sì, comprate tanta musica da regalare per Natale, un ottimo regalo sempre. Sì, è quello che io ho fatto con papà. Sai che cosa ho regalato mio padre? Cosa? Una serie di album in vinile meravigliosi, glieli ho consegnati ieri perché ha visto lo scatolo col suo nome, ha detto: ma che c'è? Papà, secondo te, mamma mia, ci sono dei vinili. L'ho aperto subito, lo hai aperto ieri in anticipo? Sì, ieri, Gigi, ho guardato le copertine prima di tutto, molto carine, molto belle, e poi ho letto il contenuto di questi dischi, della musica di questi dischi ce l'ho quasi tutte, almeno da 40 anni. Vabbè, e allora che faccio? No, è bella questa, io ti faccio un regalo, no. Mi stai dicendo che il regalo No, per me è roba acquisita bene, perché quindi c'è il doppio vinile adesso, doppio. Allora me li riprendo, papà, ti regalo un libro. Allora, facciamo così, te li regalo io. E così risparmi sul regalo, va bene. Allora, buon Natale a tutti. Dicevamo che per me il Natale è Ella Fitzgerald, e quindi Santa Claus is coming to town. You better watch out, you better not cry. Questo è il Soundcheck di Radio 24 nella giornata della vigilia di Natale. Sì, e comunque ci ritroveremo anche domani a partire dalle 19:15 con un'altra selezione, un'altra playlist fatta per l'occasione, perché oggi ascolteremo i grandi classici di Natale interpretati forse dalle più belle voci di tutti i tempi. Domani invece ci divertiremo a selezionare per voi i classici del Natale proposti però in versione strumentale da eccellenti musicisti. Pensa però quanto è bello cucinare, preparare la tavola, apparecchiare con Ella Fitzgerald. Beh, quante volte lo abbiamo fatto, papà? Almeno 50 volte. Almeno per 50 Natali. Come si dice? Al plurale si può dire? Sì, 50 sì. Natali. 50 Natali. Bene, questo è il soundcheck di Radio 24. Dicevamo, Ella Fitzgerald non può mancare proprio anche nei giorni di festa. Devo dire che Ella Fitzgerald non dovrebbe mancare mai. Dovrebbe essere presente nelle nostre giornate almeno 365 giorni all'anno. Sì, io l'alternerei anche con Sarah Vaughan, Carmen Macrea. Vabbè, adesso... Perché le musiche di Natale cantate dalla Macrea sono eccezionali. Da Carmen McCree? Sì. Ma scusa, perché non me l'hai dato un disco che lo mettevamo? E non l'ho portato, sai che lo sai che fa di tutto per farmi fare brutta figura? Da sempre fa così. Io ho fatto una selezione con lui, perfetta, adesso mi dice manca Carmen McCree, perché quello è il messaggio che mi manca. Eh sì, perché comunque essendo un'enciclopedia musicale trova sempre qualcosa che manca. No, no, quello non è un'enciclopedia, quello è mio padre. Ecco, Ella Fitzgerald, Good Morning Blues, pensa, un brano di Natale in chiave blues per Ella Fitzgerald. Solo lei. Soundcheck, il suono della musica. E anche Louis Armstrong non può mancare in un Natale targato Soundcheck qui su Radio 24. Louis Armstrong with the Benny Carter Orchestra in Christmas in New Orleans, bellissima questa versione. E poi Louis Armstrong and the Commanders in Zacchaeus Santa Claus. Questo è il Soundcheck di Radio 24 in questa giornata della vigilia di Natale, sempre con Francesco Tromba, un po' dispiaciuto per non poter festeggiare con i suoi parenti, e soprattutto gli mancherà tutta la proposta culinaria tipica della sua famiglia e della sua Calabria. Però ti rifarai con la mia famiglia e credimi, abbiamo dei professionisti in cucina in questo momento, giusto papà? Se ho voglia. Siamo pieni. Immagino di sì, già sento l'odore che non è allora, affatto tu, male. Tu sai che noi siamo molto attenti alla tradizione, per cui oggi mangeremo pesce. Assolutamente d'accordo. Assolutamente d'accordo, ci siamo e saremo puntualissimi perché finiremo il programma praticamente poco prima delle 9, abbiamo proprio il tempo di scappare e andare subito a sederci a tavola. Infatti abbiamo organizzato tutto qui nello studio. Beh, potremmo fare pure qualche piccolo aperitivo, un po' di prosecco prima. Adesso quando ci sarà la pausa dell'informazione faremo anche l'aperitivo. Allora papà, ti ho regalato il vinile, non ho capito se lo vuoi portare a casa o lo tengo io. Tu mi dici che hai tutti questi album, ma non credo di aver mai visto nella tua discoteca Oscar Peterson Trio Affinity. Questo non ce l'hai, io non l'ho mai visto. Gege, questo disco io ce l'ho. Pure questo ce l'hai. Sì, c'ho anche questo. Mi dispiace molto, papà. No, papà, non mi dispiace di averti regalato delle cose che già hai. Ma no, non ti preoccupare, figurati. Non vorrei regalarle a Tromba. No, lo vuoi regalare a Tromba? No, no, perché a Tromba ho fatto un altro regalo, glielo do dopo cena. Ah, vabbè. Allora, che faccio? Vado avanti? Sì, andiamo avanti. Vado avanti. Allora, avevamo selezionato con papà anche una delle composizioni più famose di Armstrong che potrebbe essere inserita in un programma natalizio, ovvero What a Wonderful World. Però abbiamo scelto una versione particolare. Quale versione? Abbiamo scelto una versione proposta da pochissimo da Didi Bridgewater, sempre però c'è il suono quello tipico di New Orleans e quindi facciamo proprio scopa con Louis Armstrong da un punto di vista sonoro ma anche per la composizione. What a Wonderful World al soundcheck con Didi Bridgewater. Soundcheck, il suono della musica. White Christmas, una composizione scritta da Irving Berlin qui nella versione della bravissima Diana Krall. Eh sì, perché Diana Krall qualche anno fa ha realizzato un album proprio dedicato al Natale, rifacendosi però a quel capolavoro realizzato già negli anni 50 da Ella Fitzgerald. Sì, ci siamo al Natale, tu hai fatto regali? Eh sì, un po' di regali li ho fatti, sempre tutta o musica o libri di solito io regalo a Natale. E quindi tu partirai il 26, domani facciamo la puntata quella jazz strumentale dedicata al Natale e poi finalmente raggiungi la famiglia. Eh sì, purtroppo si saranno già mangiati tutto, sarà rimasto pochissimo. Mi dispiace per te, ma devi tornare per Capodanno, perché poi noi saremo in onda anche il 31 e il primo, quindi cercheremo di organizzare qualcosa. Pure Capodanno. Eppure Capodanno lo devi fare con me, se vuoi lavorare tromba. Vabbè, tocca farlo, dai. Papà, qual è il Natale più bello della tua vita? Quello che ricordi proprio con più gioia? Ti sembrerà strano, Gegè, ma il Natale più bello della mia vita è quello del 44-45, quando tornammo dallo sfollamento e rientrammo a Foggia. Che ci riunimmo con tutti i parenti che stavano a Foggia, i farmacisti. Tu avevi 10 anni, papà. Io avevo 9 anni, Gegè. Avevo 9 anni e fu il Natale più bello della mia vita, è quello che è indimenticabile. Senti, e quali erano le canzoni di quel Natale? Le ricordi? Beh, noi allora tutto questo che veniva dall'America non lo sentivamo ancora. Noi tenevamo soltanto "Tu scendi dalle stelle". Quella era la... Beh, è già una cosa, no? Quella era la nostra canzone. Poter cantare, no, soprattutto poter cantare "Tu scendi dalle stelle" sapendo che ormai la guerra era finita. Va bene, andiamo ancora a Diana Krall con "Lady Snow", un'altra composizione che ormai è entrata a far parte del repertorio tipico del Natale come un classico. Poi facciamo una pausa, brinderemo e intanto ascolteremo anche l'informazione di Radio 24. Restate con noi. Soundcheck. Il suono della musica. Seconda parte del soundcheck di Radio 24 in questa vigilia di Natale. Ci stiamo divertendo ad ascoltare i grandi classici cantati forse dalle voci più belle di tutti i tempi. Sempre con Francesco Tromba, un po' dispiaciuto per il fatto che non è a casa con la sua famiglia, ma sei con la mia famiglia e infatti sono onorato di avere ancora una volta la presenza qui nel Groovemaster Studio di mio padre, l'architetto Roberto Telesforo, con il quale ieri ci siamo divertiti a comporre l'airplay di oggi. E ti voglio ringraziare, papà, perché mi hai suggerito, e stavo facendo anche una grave mancanza, di inserire Ray Charles, che non può mancare. Gegè, quella canzone che canta Ray Charles. Sì, The Christmas Song, che poi è una composizione di Mel Tormé. Di Mel Tormé, bravissimo. È una delle canzoni interpretate per Natale da Ray Charles, che per me supera tutte le interpretazioni di tutti quanti gli altri, di Ella Fitzgerald, di Gal Della Marcrea, di Frank Sinatra, che stanno eccetera eccetera, perché se dico un po' un attimo di silenzio ascoltando quel disco, poggiato sul letto con una sigaretta in mano e dopo che bevi un dito di whisky, papà, al buio, ti vengono fuori tutti i ricordi, quelli piacevoli e quelli... Ti voglio dire, Francesco, che mio padre non fuma e non beve da oltre 60 anni, quindi non so come mai hai detto questa cosa. Perché questo qua... Questo è quello che vorresti fare. Giustamente. Questa è una cosa... Questa è l'immagine. Sì, cioè, tu ti vedi sdraiato sul letto col whisky e la sigaretta in mano. È proprio ad ascoltare Ray Charles. È proprio un vecchio jazzman, papà. È la cosa così. Va bene. Allora io direi di ascoltare subito The Christmas Song, brano scritto da Mel Tormé, che però aveva anche un altro titolo, giusto? Sì, si chiama... È noto anche come "Caldarroste al caminetto". Infatti potreste anche mangiare delle caldarroste. Titolo orrendo, però. Sì, ovviamente non ebbe grandissimo successo con quel titolo. Ecco, però poi la canzone ha avuto grandissimo successo, scritta credo nel 1944, quindi quasi la guerra stava finendo, papà. Sì, papà, l'interpretazione di questo brano da parte di Ray Charles è così toccante che ti commuove, non lo so che... E allora, se ci vogliamo commuovere... Un sacco di ricordi. Lo so, non piangere, papà, se ci vogliamo commuovere, non ti commuovere, dai, adesso ti venga ad abbracciare. Aspetto. Chestnuts roasting on open fire. Soundcheck, il suono della musica. Boom, boom, boom, boom. Eartha Kitt con la sua voce qui al Soundcheck di Radio 24 in un classico del suo repertorio natalizio, ovvero Sana Baby. E di cosa parla questa canzone, Tromba? Parla un po' più dell'aspetto consumistico del Natale, ovvero racconta di questa ragazza che chiede a Babbo Natale dei regali abbastanza futili e folli, come ad esempio una pelliccia o uno yacht, quindi appunto parla della parte un po' negativa del Natale, potremmo dire. Vabbè, la parte negativa. A Natale si fanno i regali, si sa. Sì, però senza essere troppo, diciamo, consumisti. Vabbè, ma tu li hai fatti? Sì, li ho fatti. Io regalo sempre a Natale dei libri o comunque della musica, quindi cose normali. Eh sì, a proposito, papà, abbiamo fatto il regalo a mamma. L'hai fatto? Sì, è stata la prima cosa che ho fatto. Ah, che hai preso? Beh, quest'anno gli ho regalato un'altra sciarpa. Ancora? Sul serio, papà? Sì. Che cos'è? Un problema di fantasia? Qual è la cosa? No, papà, sai, le sciarpe, la tradizione. No, uno deve avere le sciarpe di tutti i colori, papà. Di tutte le fantasie, a quadri, a quadretti, scozzesi. E in 60 eccetera. Anni che e state insieme, gli che mancava colore la sciarpa bianca. Una sciarpa bianca. Va bene, faremo la nostra sporca figura nel vero senso della parola, con la sciarpa bianca. Sì. Secondo me, io già immagino l'espressione di mamma quando vedrà la felicissima, sarà felicissima. Posso immaginare. Va bene, altre due voci importantissime per la storia della musica e per la storia del Natale sono quelle di Bing Crosby e Frank Sinatra, e noi abbiamo ritrovato proprio un'interpretazione che i due signori fanno insieme di un super classico di Irving Berlin, White Christmas, ed è molto curioso anche vedere il video, ci siamo molto divertiti. Sì, se andate su YouTube lo trovate subito, immediatamente. È molto ambiguo, diciamo, guardandolo, ci sono delle scene particolari. Scene particolari, si ambienta in questa stanza, Bing Crosby viene in primo piano affacciato a una finestra e canta White Christmas, che è un suo classico, e poi alle spalle, piano piano, arriva Frank Sinatra con una tazza di caffè e gli sussurra la sua versione di White Christmas. La cosa è anche abbastanza improvvisata, perché non è una versione discografica, ma una cosa prodotta, credo, per la televisione. Sì, per la televisione o per il cinema, non sappiamo con precisione, perché la descrizione era in tedesco, quindi non siamo riusciti a capire bene. Bing Crosby, Frank Sinatra, al Soundcheck. Abbiamo selezionati tutti i grandi classici del Natale per questa vigilia qui al Soundcheck di Radio 24 con Francesco Tromba e il mio papà Roberto Telesforo. Naturalmente un altro brano che non poteva mancare è la bellissima ballad Have Yourself a Merry Little Christmas per la voce di Frank Sinatra, forse una delle versioni più belle. Credo che questa di Frank Sinatra sia quasi più emozionante di quella di Ella Fitzgerald, senz'altro. È una versione storica di Frank Sinatra, questa qua. L'hai scelta tu. Hai fatto bene, perché io non avevo il disco di Natale di Frank Sinatra, hai fatto bene a portarlo da Foggia. E poi sono molto legato a questa versione di Frank Sinatra, perché praticamente la ballavamo, questa qua. Questa versione. Tu dici, ma come ballavate le canzoni di Natale? Ma pure oggi dovremmo farlo, no? Sì. Dovremmo ballare le canzoni di Natale. E la cosa molto divertente, e te lo voglio dire, Francesco, è che papà da Foggia mi ha portato alcuni CD di Natale, perché gli avevo detto, vieni in anticipo, porta i CD, i dischi di Natale, così facciamo la nostra selezione. E quindi ha portato... E non solo. È quello che voglio dire. Non ha portato solo i CD, mi ha portato anche tutto uno scatolone di preparati culinari. Le orecchiette, papà. Ecco, le orecchiette. No, facciamo l'elenco di tutte i troccoli. I troccoli è una pasta foggiana pure molto buona. Poi, ti ho portato le cartellate. Le cartellate è un dolce foggiano vagamente arabo. Le mandorle atterrate. Mandorle atterrate sono le mandorle che vanno poi fatte con la cioccolata fondente, no? Ecco. Quindi queste sono, anticipo tutto quello che mangerai fra oggi e domani. Poi abbiamo fatto il rosolio al limone. Al cioccolato, vedi? Ma poi ci sono altre, tutta una serie di verdure con dei nomi impronunciabili, quindi funghi particolari ti ho portato, le cicorie nostre, ti ho portato... Vabbè, mi sta già venendo fame, papà. Frank Sinatra, Have Yourself a Merry Little Christmas. Have yourself A merry little Christmas. Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. E con questa sua versione di Silent Night, Dinah Washington rompe un po' la liturgia proprio della interpretazione di questa composizione, un brano intitolato Silent Night proposto da Dinah Washington a piena voce. Sì, veramente fa impressione, cioè è meglio sentire solo la sua voce senza assolutamente nessun tipo di accompagnamento musicale, fantastico. Infatti copre quasi completamente l'orchestra con i suoi archi e tutto l'arrangiamento. È una versione del 1953 al soundcheck di Radio 24 in questa vigilia di Natale. Ti è piaciuta questa versione, papà? Molto. Molto. Allora, fra le passioni di mio padre ce n'è una in particolare. Lui ama tutto il jazz, no? Soprattutto quello più classico. La cosa importante per lui, lo dico, è riconoscere le melodie degli standard. Tant'è vero che noi discutiamo molto spesso anche con un nostro amico, un suo coetaneo, il professor Riccardo De Filippo, che ce l'ha con i musicisti contemporanei perché ai concerti propongono il loro repertorio originale. Quindi, non potendo riconoscere gli standard, lascia i teatri e i festival sempre un po' stizzito. Fatto sta che oggi ci rifacciamo con i classici del jazz e per te, questa è una sorpresa che ti faccio, ho scelto uno dei tuoi musicisti preferiti, Lionel Hampton. Benissimo. Sei contento? Ti faccio sentire Lionel Hampton con la voce di Sonny Parker in un brano intitolato Merry Christmas Baby. Questo non è un brano proprio classico del repertorio natalizio, però è un brano classico per i grandi musicisti di jazz di quel periodo. Gigante della storia del jazz, il vibrafonista Lionel Hampton qui al Soundcheck Radio 24 in questa vigilia di Natale. Stiamo cercando di raccontarvi la storia delle grandi composizioni natalizie interpretate dai grandi musicisti e dalle grandi voci. Anzi, a dire la verità, i grandi musicisti li ascolterete domani perché la selezione di oggi prevede tutte le versioni cantate da i grandi interpreti di tutti i tempi. Lionel Hampton è senz'altro uno dei musicisti più amati da mio padre, che forse fra i vari strumenti che avrebbe voluto suonare, imparare o strimpellare c'era il vibrafono, però non lo abbiamo mai avuto a casa un vibrafono. No, il vibrafono non l'abbiamo mai avuto, papà. Però abbiamo avuto molti pianoforti. Diversi pianoforti, sì. Infatti uno ce l'ho ancora qui nello studio. Senti, papà, ma tu l'hai mai visto dal vivo Lionel Hampton? Dunque, a Roma nel 1954-55 in teatro, costava con la grande orchestra meravigliosa quella sera, e indimenticabile, perché poi feci O White Bone. Era il brano suo forte che faceva col vibrafono. E a un certo punto tutta l'orchestra scendeva a destra e a sinistra e veniva in platea nei corridoi laterali del teatro, no? Tutta l'orchestra così. E lui rimaneva da solo alla batteria sul palcoscenico. Ah, quindi dal vibrafono si spostava la batteria? La batteria, perché con la batteria faceva. Un grande batterista. Concerto meraviglioso. E mi ricordo che tra il pubblico c'era Romano Mussolini in prima fila, doveva stare Marcello Rosa, i vari musicisti romani. Tutti i musicisti della tua generazione erano in platea, senz'altro. Tutti quanti, una cosa bellissima. Va bene. E io, che non avevo finito i soldi per comprare il biglietto del teatro, me ne tornai a piedi di notte alle 12 a casa. Da Piazza Barberini fino a Vioslavia, a Piazza Mazzini. Aspetta, una bella passeggiata. Eh beh, sì, però per la musica si fa questo ed altro. È vero, e papà ne ha fatte di follie per seguire la musica. Pensa che ha costretto mia madre a fare per anni vacanze in giro per festival jazz. Pensa tu. E lei comunque ancora è rimasta, cioè dopo tanti anni rimane. Il matrimonio è rimasto solido, incredibile. Solido. È solido, però ogni tanto. Sì, però sempre mi fa. Sì, lo accusa. Mi rimprovera questo fatto. Soprattutto quando erano più giovani, me lo ricordo perché io avrò avuto 10-12 anni. E papà la sera usciva con gli amici perché c'era un locale dove si suonava jazz a Foggia. e mamma gli rinfacciava, e ancora oggi gli rinfaccia questa cosa, che lei restava a casa con i figli e lui invece andava alla taverna del gufo. Laila Bihali e Child Is Born di Tad Jones. Soundcheck, il suono della musica. Lady Snow nella versione della formidabile Diane Reeves, voce contemporanea che si è accreditata a diversi Grammy Awards negli ultimi anni, la sua versione di Lady Snow, e siamo praticamente in chiusura. Papà, sei stato formidabile, ci hai raccontato tantissime cose, adesso però ti consiglierei di avviarti, perché se no mamma inizia a lamentarsi e pensa che stiamo tutti e due alla taverna del gufo. Stiamo preparando il cenone. Su, sta preparando il cenone, adesso però dobbiamo andare ad aiutare, anche perché voglio fare bella figura col tromba, perché si parla molto bene del Natale in casa tromba giù dalle tue parti. Beh, sicuramente si mangia tantissimo, io tante volte non riesco neanche ad arrivare al secondo. È quello che succederà anche questa sera, tromba, stai tranquillo, riusciremo a mantenere questa tradizione. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 19:15, sempre qui su Radio 24, domani giornata di Natale, e quindi grande jazz, le versioni strumentali dei grandi classici del jazz, sempre con Francesco Tromba. Non so se ci sarà mio padre, perché non so se mamma ti darà il permesso di lasciarla domani. Comunque ti ringrazio tantissimo, auguri papà, auguri a tutti voi di cuore. Vi lascio con un altro brano meraviglioso, questo però viene più dal repertorio R&B, perché approdiamo al repertorio di Donny Hathaway, ma questa è la versione di Kurt Elling di This Christmas, dal nuovo recentissimo album di Kurt Elling dedicato al Natale. A tutti voi ancora auguri qui da Radio 24, da Giorgio Telesforo, da Francesco Tromba, da Roberto Telesforo. Grazie papà, grazie a tutti voi, buon Natale. Soundcheck. Check, check, one, two. Il suono della musica.